sul 3249 di solito. Su Rubina, dollaro, su Arium. Ma un salario è male, non se mi da fuggire a me, a me va bene, che mi pagano. Ma sorraggio sulla nostra femmina non le va male, a sa ditta. E la sumazione le va male, quello che resta la sa cabina, ci vedo tutto e poi c'è un culo. Tu mi dai, cosa hai visto? Ehi, la borsa se mi chiude in stupraia, la sa bella. Con questo, mi sono nulla, si guardavano quasi, la sa bella. Io bisogno di ormai mi conosco in tutto, mi sono preso nei cantoni, mi raccano come ti sono frate. C'è preso da sicurezza ci vuole vende. Che è stata messo nuda o no? Sì, beh, in costa comunque esce cazzo, su massimo, in costa esce, ammazzano il flore, In costa esce allucinante. Una abbinata in una camera per passare a ridere. E si è avuto una casa in ascio, cazzo, guarda, è messo serrato. Nuda, tranquilla su casa, proprio su casa lettica. Non ho fatto cazzo mia, sono assato. Ha preso il chiamato sul macchinario, poi di mezz'ora, ha messo in pezzo di campagna all'arma, ma che cazzo va? Non c'è un bello di Carla che vuole riprendere su boss, questa baja, Semiro, tutta fuori ragazzi, tu. Allucinante. E mi dà quanti si vogliono i costumi nuovi, sta fuori. No, beh, c'è un esempio che su Reggiseno, questa mutandina, ma che sente, no. No, ma mi ha dato una N, no. Beh, non mi ha fatto cazzo mio, compri. Le obbedienze sono lavaggio me. No, no, sono educatissimo, no, no, non vi provo nemmeno, compri. Giù, dammi tutto. Buonasera. Buonasera, sono con Antonio, all'interno di Sant'Antonio. Dove è 40? Avanti, Anto. Ciao, non dico chi esce. Io sono al minimo però, Boh, guarda che sono prende due o tre flappas. Come te lo sono al minimo? Luca, dai, salutone. Ma Luca, ben sentito. E comunque, Gai, mi direi la Rubintra già magari la Ida se la vede la intro, no? Sì, però c'è una camera separata, poi su più, compresso. E c'è fra lui, se dai birra, c'è solo chi c'è passente, Ida, no, noi si attirano da guardare, passente, magari c'è una mesa bella. Succede, no? Tranquillo, no? Ormai, addirittura, tutti c'è che sono in costa e sono che bisogna andare, mi conosco in tutto. Perché qualcuno mi chiede, pure, tu gioca Giovanni, no? Ti salutano, ti ringraziano, compreso. Ma dice che oramai è come ti sia le famiglie, guarda. Chissà, sa, mia baia, mi fidano tutto a bescio, lasciano suonare in camino, lasciano tutto quanto. Anzi, sì, se bacca casino, chiedo che bacca lì come sul petto, sto te a telefonare. Ma non devo pure salutare le sul telefono e devi chiamare. Ma te la regola, sta potenza, già, non è che lo sa russi, no? Chissà se la regola, è computerizzato, Capito. Ma è la storbe questa cabina. Sì, appena, ragazzi, mi dà la pensamenta. Quando parte in Italia su Battola arrivi fissamente a 7. E tanto parte Antonio? C'è un po' di badaggia, mi pare che sono i 3 chili, ho fatto bindi. Veramente bene, ma non è la stessa lottadia, no? Se si tutta Santo sono i 7 minuti, non mi integro, cioè. Via Lanzala. Cazzo? Sa macchina costa da 32.000 euro. Costa 32.000 euro. Non so se mi dentro medicale ormai sono tutto guai. Quanti lu? Apposta ce lo fa il computer, Ci sta matto? Ho formattato, abbiamo messo Windows 7. Ok, perfetto. Ha ripreso a vivere? Tutto a posto, tutto. L'unico problema sono i jet. Ok. Comunque ha riconosciuto la periferica poi? A voglia. Allora, praticamente questo tipo ha messo un CD, no? Non so per cosa. E ha detto che si è partito. Ha detto che andava, ecco. Ma mi ha detto che era carico di virus su questo computer. Allora ha dovuto formattare. Sì. Ok. Però poi la periferica era buona alla fine. E già. Quello mi interessa. Se il computer configurava tutto con Alessano, non riusciva a riconoscere praticamente, siccome in parallelo con l'hard disk, non riconosceva lo slave. Vabbè, gli mettevi XP era uguale, ma con Vista 7 è meglio, è molto meglio. Dicono che a secondo dice chi è buono, dice che è meglio Vista normale, è Vista. Mi sono trovato bene con XP, come lo conoscevo più o meno bene, diciamo. Non è vero, Windows 7 è il migliore, Vista è 7, allora Vista è il precedente che non serviva a nulla, 7 molto molto molto superiore. Prima di tutto è un sistema più stabile, secondo è una bomba come velocità, non può caricare, cioè un po' caricare i driver in partenza, per cui una volta che si avvia è molto molto stabile. Io sono contentissimo di Sette, io uso XP, però nella maggior parte ormai sto lavorando con Sette, conosco molto bene Sette, quindi, ma ti garantisco che rimarrai soddisfatto. E che cazzo, lo volevi buttare? Perché non ho capito, boh. L'altro volo XP l'ho buttato, l'ho regalato, non andava più, non accendeva, capito? Non andava più, era morto, l'ho regalato di un fa. No, le porte USB bruciate, insomma un casino, fa qua un altro, stava vista prima, era la ricca, ma era un chiodo, no? C'era solo la pagina di Google App in un secondo, prima ci metteva 3/4 d'ora. Sì, sì, no, già mi avevi spiegato del tuo che l'hai buttato. Un casino, cazzo, un casino. Ne avevo fatto, ho letto le CD, la disc e basta, poi niente, tutto il resto l'ho dato. Ci sono i miei dati dentro, quella disc lì. Ascolta, dimmi una cosa, Giova, quanto costa? Ovviamente lo uso come una disc esterna, si può fare, vero? Una disc esterna quanto costa? No, dico, quello che ne ho staccato, si può usare come una disc esterna, sì. Certo, devi comprarti il case. Sta mi sembra 12 euro che te lo passa da IDE in USB. 12 euro costa, me lo uso come hard disk esterno. Ah, 12, 15 da. Ehi, hard disk esterno, va bene, va bene. Quanti giga è? 40. Benissimo, perfetto, ottimamente bene. Ce n'è avanti anche per i porci. Io ne ho due da 20 accoppiati in un computer che già ha 8 anni. Con il XP gira una bomba, è un 1000 con un giga di memoria, quindi sono tutte puttanate, vanno benissimo quei apparati. Devo comprare un, mi hai detto un? Allora, ti devi comprare un datatore, case, ovviamente, cioè tutto quanto custodia, datatore, con attacco IDE, attacco P, capito? Attacco ATA, praticamente ATA 100-103, li fa tutti e due a USB. Trovi in qualsiasi negozio tipo Media World, quelli lì. Adesso dicembre, come dicevo, gli altri soldi, ora me lo compro. Uso come una disca esterna. Praticamente tutti i dati sono lì adesso. Sempre, se non mi ha cambiato la disco sto qua. Se no cazzo, ma mi incazzo mai niente. Se ti ha cambiato la disca, se non è più il tuo, allora no, non c'è più niente. Allora troverai quello che c'è dentro. Non lo so. Basta, comunque nei centri informatici fanno ridere qualche volta, fatelo dire, fanno ridere, dicono puttanate qualche volta. Volta, posso cancellare anche tutta la roba che non mi serve, vero? Certo, perché non puoi cancellarla, scusa. Tu una volta che vai poi tra disco, spunti tutto quello che ti interessa cancellare, mandi via, ma puoi eliminare anche la cartella di compressione, solo che quella da registro è un pasticcio. Non ci arrivi, altrimenti l'avresti eliminata, ma già se la fa già solo il software, perché adesso mi sembra che ha fatto una releas del primo pack per R7, quando fanno un'altra releas se la toglie da solo. Vabbè, però diciamo che questo qua è più veloce, a parte che ha un giga e mezzo di RAM, Fuglia, e a me è già qua, per come lo uso io, cioè per i maiali. Se ti sto dicendo che io con un giga progetto apparecchiature, qui faccio moduli, cazzo, grandi 50x50 con 480.000 componenti sopra, capisci? Disegni, tracciati, disegni elettrici, tutto quello che vuoi. Vai, un fulmine, in internet uguale, un giga di memoria, due hard disk accoppiati da 20, e una macchina, un 1000 da Archer, ed è perfetto, e che cazzo, silenziosissimo. Silenziosissimo. E allora? E cosa me ne faccio di un PC nuovo? Quando me lo dai, ho possibilità di comprarli a 100 euro l'unità centrale. Ma non so che cazzo farne. Infatti, io la verità lo volevo comprare perché un po' mi rodeva, perché insomma pago, diciamo, fiscali, cosa pago? Per utilizzare la DSL, cazzo, no. Insomma, lo compro poi, quando non ce la faccio più a pagarlo, prendo e buonanotte, non metto da parte. Se veramente lo sto pagando e me lo utilizzo, ecco, tutto qua. Se no poi è un casotto, Giova. Comunque, sto sommato tutto a posto, è una bomba e va alla grande, veramente alla grande. L'importante è che abbiamo fatto quelle cose, tanto te l'ho detto che non c'era niente, possibile, non c'è un cazzo in quella macchina, no. È questione, allora, se uno poi chiaramente mi dice no, ma non ha messo nulla, è successo così, ed era dall'inizio, allora le cose iniziano a complicarsi, però vedendolo magari, facendo un giretto nel registro, avrei scoperto immediatamente. Alla fine del gioco, se l'hai messo su, vuol dire che la macchina comunque è perfetta. È positivo, ascolta, stiamo monopolizzando, facciamo riprendere Antonio adesso. Per farmi i dischi di ripristino è un modo difficile. E chi l'ha detto che è difficile? Assolutissimamente difficile. Sarai caricato. Ma la modalità la puoi cercare anche in internet, ci sono varie modalità, ti prepari, allora, intanto devi avere un DVD-ROM, perché quello l'hai caricato, dove l'hai caricato dal DVD-ROM? Cosa? Vista, sette, da dove l'hai caricato dal DVD-ROM? Sì. Allora, devi avere il DVD-ROM da 4.7, 2 te ne chiede. Te li prepari, tu cerchi su internet le modalità di la modalità più semplice, guarda, ce ne sono due o tre, e te lo scarichi così, una cazzata, te lo masterizzi, boh, a push. Non c'è nessun problema, ti dice qual è la modalità per il disco di ripristino, ma ce ne sono 100.000, in internet ormai è carico di quelle informazioni. E noi paghiamo, Giovanni, dobbiamo avere anche le nostre... le cose che ci interessano, ecco, capito? E se no toccasse ogni volta andare a pagare. Ah, me l'ho chiesto giù qua, per rimettere la bici, la tua CD costa 15 euro, un negozio. Per formattare mi ha chiesto 35 euro. Così si fanno pagare, d'altronde è lavoro per loro, capito? Tu te lo fai tu e paghi, non c'è alternativa, Edu, c'è alternativa. Comunque non capisco perché Tisca le cazzo, boh, Tisca è una porcheria, ma anche in senso di commissioni, di veloci, ma boh cazzo, io non capisco perché non rimanete con Telecom. Ah, Giovanni, non è come un casino qua, nel senso che lì ti fanno pagare sempre, ma vabbè, io adesso con la verità, nel primo mese l'ho attaccato, era una cosa allucinante, si disconnetteva ogni 10 secondi, pum, mi dice ogni 10 secondi, 10 secondi lui si disconnetteva, ho chiamato, ho detto guardi, ho problemi, e lo stiamo volendo l'acqua, e abbiamo fatto un'altra linea, dopo una mezz'ora io ho punto a capo, ma un'altra linea ancora, non so cosa cazzo l'ho fatto, e allora niente, non si è più disconnesso, a posto, tutto ok. Io non li posso vedere perché sono dei pasticcioni, hanno fatto un casino e poi voglio più vedere, manco morti. No. Telecom, io prendo il telefono, ma non si verificano assolutamente certi problemi, gentilissimi, velocissimi, e non costa neanche tanto, invece ho sentito gente che purtroppo fischia di cui sei imbastardita con i conti. Ora, sto pagando l'ultimo bollettino, ho pagato l'altro giorno 20 euro al mese. Adesso mi raddoppia perché era una promozione per non so 5 mesi, mi sembra 6 mesi se non mi ricordo. Adesso mi raddoppia 40 al mese. Appunto. A me con 40 al mese, anzi veramente io ne pago 35, essere sincero, mi danno telefono, 25 centesimi posso chiamare anche 20 ore. La telefonata poi è gratis. Ai cellulari mi hanno fatto una tariffa speciale come cliente preferito. Poi internet mi fanno anche gli sconti delle mesi in navigazione, qualche volta trovo di meno, anche perché io diciamo che lavoro con loro in senso che gli faccio una pubblicità sperticata, ma non è quello, che loro sono veramente delle persone oneste. Io ho sempre detto una cosa, chi subappalta deve guadagnare, non ti regalano niente, ma se passi ad Alice è una cosa, credimi, impressionante. A me mi volevano regalare il modem, un amico, dicevo no, io lo compro incomodato. Quando l'altra volta si è bruciato, un fulmine, chiamato, sono venuti qui, le due mattina stessa erano qua. Sì, ma lo so, ma c'era una amica, l'ho fatta un po' aspettare, ha avuto dei problemi, poi lì sta a Civitavecchia, e niente, aveva la linea ogni 5 minuti, stava un po', capito, non riusciva più a connettersi. Praticamente hanno detto che c'era un problema su un cavo che hanno messo, tornato con lo scavatore, una cosa del genere comunque sia. Cacchio, sono stati un po', insomma 2 settimane, avete tutto a posto. Ma Telecom? Sì, sì, Telecom, ma lì c'è. Figurati, se non fa Telecom, che la proprietà delle linee lo fa Tiscali o Fiscali o Tele2 o porcherie varie, ma piantiamola. Sono loro che conducono il gioco, lui. Tranquillo, vai tranquillo, che è così. Tanto inutile, mi te ne renderai conto da solo. Hai un servizio di merda e alla fine, e che cazzo, senza telefono, senza niente, invece ti forniscono modem e tutto. A me mi danno modem e tutto con 35 euro al mese. Io non sto lì, non penso a niente, non voglio sentire nulla. Mi trattano solo bene, buh, basta. Non... Tutti li ho provati, non li voglio più vedere. Il modem non lo sono comprato io, capito? Non ne ho voluto da loro. A parte che i modem che hanno loro fanno cagare. E questa metà fiancata si è bruciato, non andava più. Praticamente non si andava più alla spia internet. Bravo, non la facevano navigare. Allora, cosa ha fatto? Ha chiamato e gli hanno spedito un altro nuovo. Allora, 2 settimane, addio, si è di nuovo sciolto. Allora, cosa ha fatto lì? Adesso l'ha comprato nuovo, sono andato a comprarglielo. Ha detto un amico, l'abbiamo configurato. E niente, adesso sto usando questo che ha comprato. C'è 2 modem. Poi quei modem che hanno loro non servono a niente, c'è qua. Non servono a nulla. No, aspetta un attimino. Allora, il modem Alice e Pirelli. Io sto parlando di Alice e poi quello di Fiscali o Picchiali è un'altra cosa. O Incendiali o Fulminali. Un altro discorso. Quello è Mondezza e basta. Però questo qui è un modem Pirelli serio. Rete wireless, 4 uscite LAN, quindi sono veramente contento. E te l'avrei detto, no? Allora, dove lo installo, vale a Dio, una bomba troppo bene, io utilizzo naturalmente la rete a filo, che mi è più congeniale, però andava bene anche wireless, no? Niente da dire, mai bruciato, sempre dire. Ma io vado wireless, io qua, cioè vado wireless, perché va, ripeto, per come lo uso io, guarda, ce l'hai per i maiali, te lo sto dicendo, non è che faccio chissà se grandi cose, cose essenziali, c'è una cosettina così, voglio giocare, faccio obiettivi al poker, cose così, dai, se devo cercare una cosa magari che non so, vado lì, attare, vado su Skype a parlare con gli amici, cose così, non è che lo uso cose, diciamo, come lo usi tu, ecco. E un cazzo, io faccio girare i soldi dentro lì. No, non ne voglio linette così, no. Se ne parla. Perché se devo fare una transazione mi devono fottere i soldi, non esiste. Io me li mangio vivi. E che cazzo? Oddio. No, non esiste. Qui il corriere va e viene, fa il fumo, capito? Portandomi ricambi, portandomi cavi, antenne, cose, quindi è un casino, no? Non deve esistere, non ce n'è, non esiste. Non esiste perché ogni minimo di sguido mi costa solo. Ma sai che se vengono a conoscenza di quelli che appena li campionano, ti disintegrano la carta. Oh no, no. Io li ho già avvisati che non ci sia nessun tipo di accesso. Proteggete, fate quello che volete, mettete la sedia di piombo, saldate le carte a cannello, no? Però, no, no, la verità, guarda, se devo essere sincero, vi ringrazierò sempre, hanno veramente una grande cura del cliente. Tu lì, come sta arrivando lì, Lu? No, vecchio in vanta, io qua, radio super. Mio che, ci stanno bene. Vediamo Antonio, Antonio, pure? Ma la sfida mi fa bene. C'è la sfida? Sì, in streaming, in internet. Tutto bisogno, ti ho bisogno su base pagare. Ma piccolo come ormai internet è sceso questo, grazie. Come sono andata una cosa bella? Dammi sul sito, Antu, proprio a chiedere. Dammi sul sito, entra su Ruggia diretta e te lo cerchi. Ce ne sono 6 o 7. Scrivi rugiadiretta.org. Rugiadiretta.org. Sì, sì. Ci sei dentro? Ehi, allora sono sul sito, vai. Guarda, cercati le partite lì. Ci clicchi e te la apri una. Ma forse vuole un plugin, non... Adesso non mi ricordo, ma te lo chiederà. Allora, io ho provato a piccare nel primo. Aspetta, vediamo un po'. Che... Rugiadiretta. Che... bello casino. Non è che entri facilmente. Ci sono c'hanno il plugin da scaricare, capito? Io lo vedo a tutto schermo, è perfetto. Ti ricarica la Tebu? Un prezzo. Ma è che c'è una bomba, capo Vodafone. Vodafone Station, ma un prezzo. Sì, della casa di Cefene, sempre Telecom, sono in collaborazione, e sei preciso ultimamente. I soldi di Giustamente come le lui a Salini, per un cuccio sono bella appoggiata 2 anni, so. Non mi dà più rutta, nuda, e pago 29 su mese. Boh, no, io sempre con Alice non ho mai inteso problema di suo genere, esiste proprio, no, esiste troppo bene, troppo contento. Ma non solo, questo telefono pure che è bellissimo, questo telefono si accotta su me bassissima, mi ti imbassicate e poi zero, su fisso, questo cellulare è una miseria. Mia madre non l'ha poi lineare, ha preso le linee adatti, compreso. Questo telefono l'ha collegato alla sua station, in digitale, compreso. No, no, io ho proprio questo telefono collegato a sessi da fone, un telefono analogico, che funziona benissimo. No, no, non l'ha. Casino doveva lavare 30 gimbe, mi pare 40. Poi ne pago 28 ogni mese e boh, finito. Compreso, a me non arriva più del 28 su mese. Sul minimo che porto lavare, non ha passato più di più baratto. E vabbè, ma comunque questo è un servizio eccellente, no? Devo mangiare troppo, ma io l'impianto che ti ho fatto. Però poi che fare carichini sul cellulare, lui era io e il cellulare dovrebbe venire dell'intero di ogni mese, mi bello di fare. Ah, beh, non impiego quasi mai. Sul numero l'appo mi devo, sempre sul solito. Ma non mi chiama mai nessuno, ragazzi. Cacchia sta chiama mamma, ma proprio. No, no, guarda, io l'impiego a chiamare pure. No, e poi vamo sua parente fora, e c'è un casino, Antonio. Come te la so fare? E quando la sua voce? Prima non andai. No, non andai a no. Fui sempre per tenere che arrivi a 7-2, dove sono una 7-2 se no? E noi non siamo a stessi linea in carrella, questo tu? Non ho più idea. No, è che dicendo di dato, questa linea adesso è cusa, non sono soldato su chi conta, è chiaramente canalizzato, no? Dei no vanno da 7-2, se è comprovato, fino a 7 chimba la puoi dolende, dei no. Noi no, non mi sono mai lamentato, non bene. Quando c'è la televisione in diretta, e si usa giusta. Vabbè, mi è pure usato parecchio giusto, me. Sì, la bella sappa so che non so già. La potrei come? Un preso, come se prendo un portatile, un batto giga di RAM. Figura, a voglia, finisce dalle buche. Se giuca un processore AMD Turion 64x2. Ah, ehi, vabbè, c'è funzione se il processore non utilizzava, sai, questo che l'ha messo. Windows 7. Bene, un pesce. Non ho mai problema. Mai si è bloccato, mai. E sono qua a Carbella, non so se lo conosco questa macchina. È una HP. Io ho detto Packard, Packard Belli, IBM, Compa, Caccia, tutto che appare, sono preciso, sono tutto che appare. Poi ho un compact dei 10 pollici, minoreggio, questa vignetta Vodafone, e mi collego da già macchina pure a internet. Bello, questo è bello mela. Sempre appresso lo giusto, una tariffa 90 centesimo la sora. Quindi a bossa se mi collego da che minuto so, hai fatto di 1 quarta ora, compreso. 20 centesimi mi che vuole appena mi collego. Però in 1 quarta ora, secondo i miei sesi, per esempio, a bossa c'è una rio qui in San Maddalena, qui in un albergo, mi sono collegato, patatata, in 1 quarta ora fa che tutto. Lo so, no, no, già va bene, è già compreso, è che c'è questa GPRS della rifa. Sì, però funziona da a 2 so bicaminate a 10. Se uno in osese si basa su quanto è vicino, in vita ad esempio andava a 2, so. Chi su quanto è potente. Se hanno samari a 1 non dico si bicamina, da come dipende da intatta li funziona. Da. Lo so, è la postata questa, secondo sa postare su del suo segnale. Sì, ma c'è una comodità già, qui. Qui continente come così scio. Cazzo, in albergo che riana, batto loro, salivo la connessione internet. devo vi tutta la venita, buffa e mi collegaia. Mi non trovo la posta, rotto. In un'ora questo mi ha donato a centesimo, che danno che ne ha fatto l'euro, ma hai pegato, l'altro devi uso, che in euro ne venia. Ma mancante sì, diciamo, ma hai pegato, un che in euro sono visto che mora si è attaccato. E invece lei ha fatto un'altra cosa, ha una pinna speciale, c'è cioè, su per G, aumento a tappetto sul segnale del SIDA e il crocco dei sarrettes. E la potevo pure questa, sa purtroppo. Mi ha fatto comprare la questa antenna esterna, guai, ti ho fatto ampliare. Quando sono io sono a ganso, boh, non dicono, sono solo su Luchiscia, ne dicono adesso batto, tanta bestia si abbina sempre, sente ricoglionita, compreso. Ah, bello. Tanto si abbina di nulla, mi dite cazzo, ti chiedi che si abbina di qualche cosa? Sì, ma voi non reatto, alicisi, se io la sarei tabessa, su cazzo tuo. Che amico, lo so. Come te chi la stessa macchina bessa folle? Comunque, no, non ti darà nulla. L'acqua si è venita, poi gusto, il nuovo si paghende. Però il nuovo l'acqua, cazzo, c'è una bella esette. No, cazzo, se... Su primo tempo c'è finito. Una bella esette. Non so. Luca? Ehi, ehi, non riesco a fare, non riesco a mettere le partite, ma fanculo. Guarda che te lo chiede per scaricarlo il software. Se ne faccio occasione che ho qua, mamma mia, via. E vabbè, la Slavia è in conca. E che partita c'è a tu? Cagliari. Capito. Comunque, allora, non è facile così ammetterlo. Io ci ho studiato un po' di tempo. Ci vogliono due o tre plugin addosso, capito? Perché se non te lo apri uno, te lo apri l'altro. Purtroppo devi cercarteli. Dunque te lo chiede. È positivo, eh. Adesso me lo faccio fare da Antonello, da un tipo che come ha formattato. Così me lo faccio mettere nei preferiti. Me lo faccio l'altro che vado lì apri. Vai su www.calciolink.tk. Sì, calcio link K finale, punto tango chilo, TK. Allora, www.calcio link, tutto attaccato. Sì, calciolink.tk. Ecco, beh. E guarda lì se c'è qualcosa che puoi aprire. Allora, vai, vediamo un po', calciolink.tk, lascia via, un vago. Questa cosa, ma giochi, ma c'è musica, no? Questa cosa, ecco, classifica, vabbè, va, nulla, calcio link, Rai 4, no, no, io, te la fa installare, là. Vedete che sta ranchendo, c'è bene che mezza. Ingroppende. Tranquillo, no, non dovete ingroppare con nulla. Anche dovete entrare. No, anche se fai ghiaccio a doccia, forse si è coccato nel cutto. Quando sei più gai. E ma ora l'ha ricomuzzolato gli orari, compreso. Puro. Adesso. Ma non... E come l'ha preso amato, strano, compreso. Forse che vestito. Ma mi è microfona questo orario, mi è mezzo sattero. Sì, tutto ma è tanto, sempre sono attesi, tanto di te. Sacchimbe sono sempre sacchimbe. Con ora pure, tanto se ti segna sacchimbe, tu hai di chi sei che lui deve fare quella cosa. Biologicamente che non la bizzano. No, abbiamo la pittura, devo fare un'antenna sacchimbe a notte. Lo so. Poi questo batta di chi si deve fare una. A se dose a mezzo ha preso fino e rientra, ma è la bietta. Puro. Se devi fare questa cosa, ma non la posso non. Lui tu mai la bala, non preso. Ma è fin là. Piantala. Chissà io da quella conosciata, cazzo non ho pittato su musichile veloce. Ma questo non bennara. Umido bala, non preso. appunto, che poi ho deciso fritto, no? Io sono ammasso cervicale, compresci. No, che fa che bene. No, è una cosa che fa bene, mi dico, se no, cosa loro sono asciutto, se non penso. Ma se mi dico, faccia che mezzi, qui, io sono mio, via Roma. Lascia le sale, te, Pavo un rincoglionito, E sei sempre a me ancora, cazzo. Non dico che legge tenne, mi. Debile l'uso di tenne, compresci. Vai, te, cazzo, questo che l'appoggia su, perché la furia, di da... Non sa dire, caddo, morta male. Non è facile, no, questo. Hai fatto provare a bere se l'hai caddata. Questa sicuramente come ti ha fatto a scivolare con questo? Non è tutto, mi ha detto. Non è tutto. La tonadia fu essendo, fu pulente, si uscita a Roma. Questo che colte questa donna melinzana bella, cazzo, allucinante, matura a me, proprio d'acciaio. A doppia isso che me. E l'ha pulito. E cosa? Io mi ha pressare. Lo danno. Un pesce. Dai esso. Per il gai già. È tremenda, no, ma io sempre girare in Bulgaria, in Molienza, però c'è stato attaccato un pompieri con da, ma boh, molto simile, quasi quelli copiati la condotta, no? C'è andato con da, è tutto quanto girando in tondo. Non dico, ma... Però hanno quei visti abbassa a noi, ciao, buongiorno, buonasera, vieni qua. Avanti. Qui a Barosme, vedi, e ti si fa attendere, dottore. E ti si fa attendere, lo fa. Dottore, immaginato di cacciappi di suo motore, di suo tramva, c'ha sette guascio, guascio. Quattro dita. Pazzo, i ragazzi. Su pazzo di via Cavour, cazzo. Ma quanta frutta, isso. E che è frutta? Era frutta. Con calzone, pirone, io. Sicuramente frate mio. Questo non vede televisione, però non è Rai Tessi, hanno le vette fuori. Levando. Te cazzo di fuori questo povero dottore, cazzo. Chi di sciuba, non di sciuba l'anni uno. Ma voi per il sole è bravo, mi lasciate venire sulle piccole vacche. E per il sole hanno di sciuba, sto. Ma non so, ma io, la tragedia di voi, si deve poter fare a pieno. Sicuramente comunque ti si è mandato la tua Rai 1. Che chi sarà Rai 1? Candesce già. Le regole erano mia, te lo ammetta. E voi ce lo in banda. E quello. Questo apparato che tu che manta lo dana, ci devo cacciare appena su Dreamer. Quindi, che tu che manta, non va che puria, s'antenna male, non si appuscio. Via. Si su caravone dai Gudala, che bene, la cosa bene, non lascia gare tenendo di luogo, boh. Sempre su di web si sale già, non morre mai. Si su che riporta dai quello di sciubata niente, pure se stanno a bascia, ne ero sicurissimo. Cazzo, è troppo addosso, Anto. Ma te la metta ce ne babbo già, tanto bambo ci sei dato tu, sempre problema a badatti tu, sempre. Abbiamo risolto il 27 e in che tu barata batto non lo fai io, lo risolvi che tu barata batto, uno casino. Ma e te, allora per comprare una cosa, come da secondo c'è zona meno, beh, ma c'è zona sua mica è male sul segnale, che sa punta i su mia, sa fine che sono i suoi fatti su monte, su problema su e chi su, i due, da lui, su questa cosa è salicata, io sono sicuro di bessire dai due. A te momento se no se ne babbo, ma si è regolato la 180, non ne fai più TV, è benissimo, in 28 non ne fai, però non fai in altro luogo, compresso, un casino. Non assiccio. No, è facile no, attenuare, Alice come ti giocato a risolvere, si asa, suo filtro si indogna apparato e ne vuole su un'antenna ora. A contentene doppiamente le sapelli, dai. Tutti quei come si digitale ormai non gli fa che preso una sega, si è bava appena mi dice, il segnale sono pulito, che sant'è no, boh. E se ci dà due subito, per esempio? Se uno di noi se l'ha niente a sto segnale. Se vedi che ti balanta a batto, l'antenna e televisione attaccata a batto, sopra. Se uno il bucche esce, debile, lo fa che fora. Scusso, vanno badato, cosa ho detto sui mosse, ma sono ancora perfezionente. Ad arrivare a questo punto, che devi dire al suo massimo, che devi sa cosa bene, vuoi che sui figli servi, mi no, e che, avanti tu. Questo non ho vinto nulla, quindi non è un problema mio. Quindi se ero brutta a volarci, la per portare sicuro. Cacchi, la radio antenna, ba... Sulla piazzata. Figurati. E bilancia, non è bilanciata M, un briso. E te cazzo bilancia, un pannattore, ma io dico che... Allora, su 99 momenti di soccorso su Rune, antenna frasica e boccheria, se boh, finito. Ma proprio l'installatore si improvvisano, un preso. Poi si avevano questo CB. Allora, non è che fanno sempre caso. Ci avevo già pulito, se si mette senza l'uomo, quindi dico tutto quanto si è andato, no? Poi naturalmente basta di dimostrare appena e si risolve questa cosa, però cazzo, no, porca puttana, un elettricista, una vita elettricista, cazzo, bisogna lei controllare l'altro. Ma Gianni, questo so, di riccia trasmissione, come c'è l'esperienza della SA2, in riccia trasmissione eravamo noi, questo non ne comprende di nulla, compreso, noi che rimanchi in testa un'emissione FM, SSB, ma te ne comprende, che giù non il segnale in conca. Ma vabbè, ma cazzo, il canale in conca però fa che casino a noi, si vede. È vero quando dai mi arrabbio, a da voi, naturalmente il cliente paga la cavaga, ma però cazzo, mi gira sul bottone, se che, insomma, nella fesseria sono. Tutti due, ma sono 99 vento, è reso caso, sono 99, il contato, l'ico deo, la regionale, questa persona è interessata, chi sa a ricerca di questa cosa. Emanuele, caro Giovanni, il problema al 99% dei casi è causato dal cliente. Boh, finito. Già, no, questo se dice non mi comprende le trasmissioni, se compresso. Sì, però intanto cazzo danno la palla a noi, torniamo sei due. Devo il cazzo di fatto, non li porto fare nulla. L'unica cosa che posso fare è che lui su cliente, amore, pure non per il suo lavoro, anzi ti danno una cosa. C'è una cosa, io a me piace pure più il travaglio, però amore, no, fa, ve lo dimostra, e si sarà sul discorso. Come te recupera? Il te cazzo è andata. Sì, ma barignoranza in questo installatore, se... Non ne comprende, né? E quando se non ne comprende, né, quando è grai... Uno di cosa da mostrire sulle serie di radioamatore e sabbia visto la fine, solo gusto mi, devo solo gusto l'udiare. Ma fa che guerra, ragazzo, ma è inutile, no? Già lì. Ma infatti spalviero là da gusto mi, che è sulle gare, sono 27, no? Però se sei un po' salata, dopo, mi chiede che adesso. Appunto, se almeno uno viene obbligato. No, devo la regione di Fiscio. No, a me ne contanto di delicatezza, si un po' sanissimo Antone. No, guarda, ho questa cosa, cioè, sì, andiamo a sentire, ma non mi credi, no, ti credo, andiamo. E lui dimostra, mi ha bagusto, questo, grazie. Ok, quanto devo dare? Grazie, oltre che ha risolto il problema, due problemi. Il più canale, se tutto quanto. E bene a lui che fuori assomanco due anni, so, in Giosso, che si nata da Comedo, era un disubbo, ha chiamato, non si acciappito, risolte, sa proprio sa sua pure. No, non riesco a comprendere, cioè lette non dici di mide, de trasmissione, de cibo, non ne comprende nulla, sa zetto. Ma non sostente di chi più pago di essere installatore, sono installatore e sono più su casa cazzo di cane, chi cosa ne guarda, si schiettano sa puttanata, ci fa che ne pagano un impianto, sa di quanto sono messo, su peso ancora, dove si scritta il flyer, peso ancora, comunque vabbè, no che come te lo risolve, no che se no fa che santa, se no poi sta una giuccia, è inutile, riprende tu. Ma non ci rientra comunque. Un attento biglietto, da lo, no, vicino prima, biglietto è già, da una locale che è su una piccola roba, una paghina, una compassata, a me da perfetto biglietto. Obbediente, non rientra il luogo, ma non rientra il luogo, boh, basta, mi occupa due, finita, però due, può indebilitare ancora l'emissione verso questa antenna, perché se fare il gubbara con il subbuio, può dare più uso, un attimino delle possibilità di riflettere a meta, di chi può fare questa domitta? Ti che lascia il subbuio, si indaga di comprendermi. Che abbiamo Luca uno. Sta giù, facendo. Mi sto ascoltando, mi sto mandando qualcosa su YouTube. YouTube? E prende tutto da subito. Oh già. No, quelle zelle che ho preso, a me mi hanno affuttato il salvente, che da elettricista si improvvisa l'antennista. Non è tutta l'antennista, non comprano un cazzo, c'è differenza, che uno vedo se pure l'elettricista, però comprende qualche cosa. Si tratta di ne comprendere o meno. Per esempio, questo cugino dopo, questo Marfi è tutto come una grava. Ah, anni fa che ero un vago, però sono un vago grezzo, là. Sì, noi preso no, esce cazzo, lo cazzo e mamma lo consigliato. E allora su visto dove sempre il calore, bisce regalare su guadagno al massimo, cazzo cane. Non preso, e bintra la. Fa fare una ruspa che entra in testa la televisione. Io non bintra solo la ruspa, bintra pure una zona di fega, se una con caino questa sua. Pronto cazzo, non le vuole più. Lui è pure potente, sa di guardare. E se invece bella ragionato, se sta cosa non la si è fatta. E se Gesù si è mandato due a fanculo con questo? Ma Sarria, io subito l'ho fatta una cosa. E te fate una Sarria, fate una nuda Sarria. C'ha la pedinia della vaglietta. Fai su duque? No, ma manutenzione dell'antenna, cosa non l'ha fatta? No, Giuseppe chiama sempre a me. Ciao, ma Mattis, non le vai toccare nulla a Giuseppe. Non è mica l'hai visto. Dove sei chiamato adesso? No, no, vai toccare nulla. Quando va problema sulla macchinaria, naturalmente c'è un'assistenza giusta, la sua macchinaria lo so sempre, ma però se va problema ancora più in mano, mi chiama, le commenta. Con Giuseppe ti bisogna una vita fiducia mera da me. Oltretutto poi mi conosco pure, ma non so se vuoi che brunare, già brunare a chi brunare, no. Fino che ne conosco gente fuori, già brunare in tutto. E non mi interessa, no. Con Gesù. Gesù è serrato battente, già lì. Chi è? Gesù. Ma poi un preso chi è? Io che vale. Io vi conosco, vedo chiusi. Si è fatto andare malone, piantene, tu matto. Che benica? Sì, no. La macchinetta l'ha anche levato, compresi. Io vendo sempre la macchinetta, sì. Molto, molto. Andato e fermato. Sta. Caramente elettricista, pure in gamba, cioè, ha fatto gli impianti su Billio, nel Guru, in discoteca, cioè. Ma io sono bello, la solo di solo sa che fa zero, vuol dire, a cazzo. C'è un billionaire, uno è. In Costa Smeralda, ha trovato Marfi, pure, non lo dici, c'è la discoteca del briattore. Ah. Ehi, compreso, da voi che è diventato famoso e poi fallito del butto, la razza con cada cazzo. Come, io non dico che te non so dritto ciò che vedo giù. E un duccio, quello, questo deve fare la sua manutenzione a Giuseppe, mi sono macchinario. No, però. Non mi fai con questo, Alice. Sei buccione? Sì. Dai, già, sai che nacchi 20 anni fa che lo vuoi dire bene in questa protezione civile, anche su qua dai corrone, che ti ho tornato la frequenza. Ma no, che... Bah, l'ho poi cominciato a denunziare, sa ossa. Cazzo, dice bene. No, questo non è sano. Questo è una da puttanata, se manca a destra. Sì, ma ti pensate, cioè, ma lui chi si sono? Sono mai trovato su una massa alcolizzata, chi si sono? Ma lascialo, Peter, se sbaglia, ti fa riato, tu guarda il pazzo. Ma primo, come magari, non be' più, si sono gente tranquilla, ma primo fu un incasinato, forse, ma ti lamenta. Ah, ma voi chi casuno chi è un mattone questo tipo? Ma hai riscritto tu questa protezione civile? No, no, non ho preso manco idare. Si chiama Vicente Belpuro. Che cazzo è? Sono un idraulico. Ma intelligente, questo è che guarda, è ad una conca. Sono dei Nico. Sì, ad una conca, poi subito su, mentre tu non lo critica, la casa lo vuole permettere. Solo che non comprendete un cazzo, la differenza è sicuro. È sicuro. Non preso, non bisogna andare, la polessa al WPMR, salire di fila del carnevale, gatto 3 mesi lo sai, ha appunto, ma è questa la mia. cazzo bisogna che tu che la radio, non devi presso più no già, cioè se devi presso tu a radio no, tu mi nella forra, non devi stare devo che scenda a piedi le fonende, devo mi nella forra, cazzo che se devi tu mi carai niente, ti immagina? Ma se non lo dà? E su è preciso, come sei venuto qui? compreso, questo è un salto pulitissimo, cioè netto, non bada il soppiamento, come dice Gagliarizzano. A te che cava ci su con la mamma, e te lo sai? No. E lo sai, se non servirà nulla su Gagliarizzano. O su riso, o su riso, fusci, fiti, fiti. Tutto, perché non sa più del formato. Cioè, proprio pulito, sa la che nostra esce, netto netto. Sì, amo sono usato, vabbè, naturalmente mi occupo che un bagliere lo fai da una male, usato per il no, quello si intendo, pesante. Sì, però, tu là, su babbo Michele, no, c'è la regola tua, Michele, già la sua amico tua, questo bestia che lontano si mettere, ma hai compreso nulla, esatto, no. No, non so, è abbastanza complicato. Ah, lo deve fare da rene, lo deve fare da pulito, questo problema è il tuo. Deve uscire impostare come c'è parola, sa. Invece quello è più mettato qua, no? Che su gatto, mi rompeni il guglione, mi rompeni il gas. Se mi fai il gas a chiesto, le fosso, io capo il guglione, le fosso. Preso una tecletta. Immaginante. Sì. Tutto questo, per intendendo. Che fai, da nessuno sto adesso, appena veuso. Se la sei risente, ti la giudito, piglia lo drone e ti risali, ne accassassari. E no, poi, no, guarda che su tattarese è pure bello, cioè, non so che non ti fissa, sul dialetto tattarese è bello, è un dialetto luccicante del Lunaro, no? Il suo senso qui esce comico, pittoso, brillante, bello. Non è che, per esempio, che sono reso che è feo, aggressivo. Sono reso, cazzo, per esempio, è un dialetto feissimo, proprio feo. Devinetta, dialetto di minaccia, feo, pesante. Un usaggio stravolto, proprio, da pastorazzo. Ma poi è bello. Ho fatto i dini, mi posso... È diverso. Invece quando sono io, mamma mia. Ho giocato il dialettano, mamma mia. E un casino, un vasticcio, tu si chiede sedire, ma su queste Cagliari, quando arrivi fine se sa baja, sa che cazzo, come? Cazzo, Maurellino, mi si comprende tu, cacchio. Ma tutta a te si comprende, chi vuole con intatta si sta perdendo, no Luca? Esatto. Che si sta perdendo un po', no, la lingua? No. Vabbè, confronta più, anzi dai. Comunque dai, più o meno si parla. E infatti, come stesso Giovanni, Lorenzo, mamma mia, solo che realtà. Essere lucidante. Non c'è confronto alla vostra lingua. Ma neanche a paragone. Ma poi, come hai detto tu quanto prima, diciamo che è molto più facile impararlo. Sassarese. Cazzo, c'è un marocchino che si chiama, un negro, si chiama Barri di Bucu, lo parla meglio di me sassarese. I marocchini lo parlano, già lo so già, ormai ci sono marocchini che sono 30 anni lì, ormai. Ma per farti capire, cazzo, è una cosa allucinante, cioè lo parla meglio di me. Talico io, allo gioco, una giuvissima in chili, è pieno di sassari, vieni giù. Alumanco, 2000, no? Di cosa? Di marocchini. Tu vai, anch'io, la sala di peggio è pieno, tutto marocchini, cioè Senegal, dai, Senegal. Sono di tutto, c'è cinesi, è pieno, è pieno. E noi fino a avremmo uno in ovvia, a me, alla Sisa. Gianni già lo conosce, vero già? Cinesu? Wan? No, Ibra. Ma non è cinesu Ibra? No, marocchino. Ibra marocchino? Ibra, bravissimo Ibra. Ibra fa lo sempre da ciappare. Tu lo saluto dai su, però no, al rientro. Ibra, non fai a pranzare. Ma che ha... Da sondende, non è mai potuto in sardo. In sardo parla lui. Forse l'altro giorno era mezzo in tirani già. Che sciuga. Ha più che musulmano, non è canto ciucciata. Ehi, già dico già, chi entra su circolo, no? Se tu stanno a chiusi qui che si deve rifrescare che hanno incassato un Heineken, un po' che si entra una macchina di una basente, però non ha capito che ancora vuole in questa strada. È molto bello, molto. Sì, ma fa che bene te ne la frutti, di no che non le ne nulla per l'ente. Se trovo dell'acquisto che fu di trincende, senz'altro fui andare fino a su, l'acquisto, ma Ibra, che fai, bevi, e alla, cazzo una calla se la prende in culo. Questo è la Kobeck, no, tu. Quebec ci sono anche a Italy tre, no? Tre supermercati. E lui è fisso lì, poi ormai lo conoscono tutti, anche il caponegozio, tranquillo, gli fanno il panino con mortadella se lo mangia tranquillo, non gli ha fatto nulla della regola musulmana. No, ma una cosa più bella di che te, che i buoi li comprano tutti, mi fai che denaremi, i bravo, bucami. Io ho lasciato a bossa, Bermuda ne va a pelare due pagine con chi si. Come devi buca denari, dove trovo un occhio? In gamba, troppo fuori. Americano, quelli. Mi pare che vada in vaga inglese pure, no? Sì, a me l'hanno vedere e poi non ti obbliga mai a comprare. No, che tranquillo, calisi di comprare. Compreso, ma che mi ci ha affacciato, l'ha pettato nuovo, ha fatto, oh, guai! E visto una Games on Five da risulta. No, travaglia, cioè ormai alla sua stazione sua non lo tocca a nulla. Ma che si ingamba. Non conosciamo tutto ormai, no? Siamo su. Tutto uno giro, compreso. Quando chiede mettere mia, Arsiglia, quando chiede Tisinarda, sate su capo condomino, quando chiede su capo del supermercato, tutto la pisata di intro, tutto, è educatissimo. E già ende già. No, già in cascia la canassetta. Già bucata, i bravi sa bene pure. Poi trapanato, perché lui sei bravo, che non gli fa che ne problema. Si faccio un angolino su. Ah, questo non obbligo a cagnino sulla stazione con. No, ormai se. Io metto una vita. Più sulle esattere di baci sta zona, bisura, più pago NM. Questo è più bello assalto, compreso. Ma che danno tutto, una centina, una collana, bene, non dico bene la diolina. Io lì. So ben buona militare, ma poi bello o meglio. Ma non deve essere chi conosca, che faccio un militare, che l'ha qui di cinturone pure. So ben buona militare, se no te subavo, non è tempo, ma si lo giù via. Ma battene pure solo se ti vale sul pantalone, perché è originale a me. E pure roba massa, bala. Allora non la volevo esporre, compreso. E già lì, ma che bella compra mai in nero. Passa l'uffagere. Uno bravo visetto, esce. Come lo tratta bene me la? Questo. Se devo comprare, compro da Isla e te devo levare da un altro. Ma, un povero è tanto. Poi questo cinese fa camma, mi do l'asco. Sono bravo pure questo, mi. Sono bravo, mi. Questo sono della Repubblica Popolare, dottor. Sono bravissimo. Io non riesco a capire, lui, questi cinesi come fanno a campare. Cioè, boh, non lo riesco a capire. Che scioccaggio. E dillo a me, cazzo, conosco cinesi che si giocano 2, 3, 4, 500 euro al giorno alla macchinetta. Ma infatti come ecco dicevamo, ma cazzo, ma io ci faccio i cagani di là. Una cosa impressionante, con la futti nuda, stai sempre in buchemi. Non vuoi campo, se tu passi qualsiasi negozio dei cinesi, lo parte tutti, quelli che sono qua a Sassari, mi urti, hai cazzo un campani. No, non funziona così. Loro vengono a stoccaggio ai negozi. Insomma io uno, cazzo, a te due sono entrato, non banni uno da tarie, non è trovato a campare, vuoi a pagare l'affitto, non banni uno, no, non banni a nessuno, non bisogna nulla, dai. Non bisogna una sega, che giù che dice questa cosa, non vedi chi carica la sua macchina. Sai l'appuntamento sana. Non dico. Sapete, sono entrato a comprare un abbo, ma per comprare di qua fa cammava, non funziona bene. E oggi poco guadagno, mannato, poco guadagno, Comunque, non è incircuta, allora. Io se funziona a voi, e va bene la salonnata. Mi diventa il dettaglio, però sono già fatti su tutto grossissima già. E poi si lo passano tra isso, no? E tanto vi tengo un centro in difficoltà, e collaborano a me da me tra isso, non ti grettano. E te Ryan, praticamente, così in fine nata, accanto a che quello bada, sono matti si chiede subito compra, adesso lo vende. Poi venire un attimo, giorno, vedo l'asso. Su questo, su questo vedo il mio cucicipano. No, ho abbinato un nuovo tottegano muro. Ehi, ma te, se lo tu due sicuro giunti. Ho abbinato un via a Roma, e vino a meta. Mezzo santo, so che si ma sono tutto quanti città cinese. Ma poi sono andato in questo via a Roma, non si è andato intro, ma è tutto rotto su, sanaggia. No, questa è la stessa plastica che usano sull'italiano solamente, questa differenza che locale minore, magari, compri. Non so plastica, se non vince la so plastica puoi imbussare. Plastica ecologica. Compreso. Come bili forni obbligatori, guarda. Ci ha trovato un loro frigo e bello miccia. Giù che digitale, freccetta, sa bello, bello, bello, cazzo. Su barco di 30 metri. Che so fa la morte, non le fa in nulla, cazzo. Una regala la pava, cazzo. E adesso ti sa PRC sempre. Ehi. Repubblica Popolare Cinese. Bellissimo, esce. Giù sul suo mezzo. Bello. Ragazzi, hanno salato un usetto di due ragazzi 700 euro, quello lo paga in euro ragazzi, e ti è durato una vita. È un casino comunque, un casino, è proprio io cazzo guardo che si vi odio i Senegal, no, la verità non la verità, sono bravi, però questi cieli sono tutti cattivi, tutti quelli che conosco sono proprio strani, sono persone strane. Tra un po' ci vanno via a noi, se tu vai lì al corso Vito Emanuele è tutto di loro, tutto di loro. Fanno bene, fondamentalmente l'italiano è stato stronzo, perché quando era ci sparavano un pantalone 120.000 lire, mi pare che non sia una cosa consona con quello che è l'habitat di un tuo concittadino, compatriota, il ladro l'italiano. E si caia, si guadagna a 2 euro sono jeans, si guadagna le cose a chi tu... Che tu hai vinto, tu dai 2 euro, dai, fagan bene, deve ne mandare a cosa se mi succede. Sentilo, io compro dalla Repubblica Popolare Cinese, sono già, mi sembra, 5-6 anni, compro cavi, antenne, amplificatori, moduli per PC, roba Sony, PlayStation Sony, ma non confondere con la Cina, con il mercato parallelo che ha creato l'italiano, che l'italiano è ladro, no? Lo sai cosa ti dico? La roba funziona bene, tutta, tutta, non ho avuto un rientro, uno, a dire, uno perché mai, mai, mai, tutto a basso costo, sono contentissimo, ma perché li devo maledire? Non sono cattivi, li devi conoscere, li devi conoscere, io guarda in internet mi trattano da Dio, guarda l'altro giorno ho comprato una partita di condensatori elettrolitici, in Italia volevano 100 euro, loro 10 euro, e mi hanno dato i Chemicon, che sono i migliori che hanno loro. Eia, già, ma lui usa Voxu, ma la gente usa Voxu, chi va per radio? E bobina, dai, ma cammina meda. Internet ha portata di mano, las. E vabbè, come non mi girano un appoggio, da quelle partenze, lui. E beh, comunque, vabbè, ti creo, Voxu. E entra in mediaglobe.it, chi è per radio? Tra qualche mese in arrivo la nuova radio cinese, banda. 50 watt, V 50 watt in U, 150 euro. Perfetto, se funziona bene va bene. Dammi la pagina per l'ottavo. Qui. Cioè giù che tutta la funzione di un icon che ne rossa la matochetta. E magari c'è pure più bene. Dammi Luleo. Bello, su display isla, fantarina, estraibile, ne devo fare cose. Ti sono aziende che abba, ecco. Sono d'accordo che vada una saccina se pubblica popolare cinese, eh? Cioè PRC, Popular Republic China, poi dottor Philips, va bene? Tutto già messo a casa, se sono appoggiato a ISOS, un motivo per dare, porca puttana, cazzo. Sono alimentatore della PlayStation Sony, da Pinocchio, ma non me la metto con le modelle US. Cazzo, i nuovi in Italia costano 30 euro, se che vai a dire l'ha pagato i cugini, che in vero? Dopo sul cellulare con questo digitale terrestre incorporato, comprava IE. Ehi, da quando vanno benissimo? Ti devo, non mi fa che prima la via nulla. Compreso, devo, sa tra ossa, fu in un locale, in tenesi scena, mi. Fu in ulbe, questo fu disperato, cazzo, ma che gioco fa? Tutto sa lampada, se sono riuscito a caricare sa batteria, annacchi. Le fanno la patria, ogni annacchi, con questo fusare sono venuti a campo. Ma che bellezza, più di 300 euro in batteria. L'ha panato a isso. E poi anche bevo una cosa. Questa lampada non ha contato le sue bambine in una, eh? Ma dovevano fatti gli esifici. Ma non niente neanche. Tu non era mica tanto gli esifici. Tutti, non ci sono questi negati i vinti, neanche 20 gimbe. Tu non niente, ma non ti preoccupi. Se crasa, fui niente. Ma tu, a chi vedo su una, sa lampada completa. Oltretutto, da una mezzo di questa italiana, beh, sempre andiamo giù. Sì. Come se io comprendo se non è un questo LED, posso scrivere sul tubo, da lì arrivano. dura un sacco ora di più del neon, consumano vaghissimo, bello, so bello. Adesso abbiamo l'olene direttamente, a tutto a LED. Bidua, sta parlando di sono troppo in gamba, adesso mi bacia un po' bene. Tutto compro da internet, un peso. Per indirizzi chatti, la giami, guardai, e ne bevo, e andò direttamente a suo sito, e su mi danno occhene. Fatto giugine, mi delippide, addirittura che cosa mi impide sa cosa, ma non con, non con transazione, neanche in tempo se faccio transazione. Come un tecnico volevo comprare, passa in legge. E io dico, io pure compro, mi danno a parlare tu. Roba, lama sopra la serra. Questa che sopra la serra acciaio, che l'amo, sono. Cazzo intatta le negrina, 30 euro su una lama. Ma risetta, chicco, 9 euro l'ha pagato in internet. L'ha pagato chi cacchi chimba. L'ha pagato qui, è allucinante. Antu, c'è transistor de potenza di suo finale, se. No, il noge, nel fusaro, chi bello, se tu dai, 0,25. Poi, adesso mi hanno mandato sul pacco, troppo ordinato quello regolatore dell'M317 2 sod, mi hanno regalato Baranda transistor IRFZ N40. Baranda. Ed è questo bio alla televisione, di Ussen? No, se lo vedete di sotto potenza, posso amplificatore. Su 2SC, su un difescio. Questo se vuoi mi lo dà una. Questo mi lo dà una cassetta, tipo vento, du vento. Questo mi lo dà una 010. Ma tutto le sono nemmeno male, no? È tutto cerrato ormai. Che adesso c'è vita nuda, ma nuda, che mi si fezza. Se ne sembra, ma pure che tutto. Tutta puttana, se. Per questo che si è preso la sono di parlare a cazzo cane. Come la vaga, no? Di scusa, Io come ho caffè un po' cippato, è bene pure. Antonello non è mai sempre su circolo. E vabbè, è detto sempre in internet. Io sempre in internet, ricordare, tutte le ore. Mi rientro, a lei, sublinazione, poi beh, compare che mi ripone da Zatrala, hello, visibili, tutto ciò che chiedo te, non va problema, guarda, ho un problema con questi, non ti preoccupare, LED, cazzo, LED lampeggiante se ne ha un po' una lascetta, con il sapore elettrolitico se non va in mezzo, e il ragazzo non, vedo tutto, resistenza, sa, tutto mi mandava, ho preso, mi ne mandava a provare pure. E se te, corriere a tarifa. Allora, di solito sa bossa, suo pacchettino, vabbè, sono misa apposta, capite? Io ho tutto su questo di PC, fino a canto, sa bossa, se no non beh, ho Bartolini poi salto parlando, sono stato di ingarica, se no sei su Corriere dell'altro, se si dia. GLS mi ha tenuto triplicatore, se cosa Carlaias. Caso, tra richiesta, che qualcuno mi lo so, che nara. Sotto sono ora di ascensione. Cosa nome mi devo tirare qui guidato corriere? Tutto lo conosco, e se Dio gliele. Infatti io lo chiamo, quando io su tracking su computer mica sta rivende, mi sa radio. Si telefono, sono di Santo Maurizio, mi la metto, mi deve arrivare una radio. Ma poi nada, il contatto a tale bar, sono andato e non sono buffato sul cappuccino forse. No, qui sono bravo, se lo so quello che sono bravo. Io Bartolini ho cavallo con le tasse a sera, questo due ragazzi che la chiossa si inceppa su casa delle citofoni digitali, però con più da, e l'hai petto, primo minuto sono mudata. Ma troppo contento, no? Bene. Ti lascio di fare sul negozio, ti fare una guida, le musine di una resistenza, con un elenco, ma vaffanculo. Ma questa non è la tua salute Bartolini, non ha compreso. Lo so, che la coppinia che la devo di cui sa se le finire, buco. Cannibaglia, cioè Cannibaglia, io sono bossa a me da andare su un veloce, ehi te cazzo, ma che ti puoi suonare qua? Ma è te che cosa sera, noi in tazza, ma come hai compreso che? Boh, via Vivaldi mi va a recriminarla, c'è una fianca su Bursi questa, a sinistra, inoltrato, lo so. Comunque sono contento me era, ma proprio Antu, da, è stata una cala allucinante, ma c'è poi una meta, troppo contento. Tu devi comprare con pago, fai il prezzo buono, stravaglia sempre, ma non è legale che. C'è una bella cosa da non all'esso. Tutto da niente. A decadere finta finti, però devo naturalmente prima programmo lo suo cliente, no? Praticamente lo ponzo in elenco e poi un prodotto quanto un pare. E dai nuovo. Sempre Paese Repubblica Popolare Cinese, sempre la stessa cosa, gli appusi più sattico, no? Prima lo bidene bei, mi cose di miseri, poi che una salzia di denaro, lascia questo decodere, compreso come ti ha fatto? Compreso. Allora, ora riprende. Tutto cash. Lu. Ma parole non è cash. Oi. Compreso, va bene. Ah, riprende a Luca. E non bene. A biglietti? E mo. Che li fanno qui? Ah, c'è un troppo che è un casino, dopo devo armare. Beh. Bene là. Ma lontano non vado. Allora ti chiesi già. No, devo fare per l'operazione, che mi devono mandare un'email e devo caricare un software. Compreso, che mi hanno incaricato di prechinare. E vedi Musilana. A questi mi vuoi piegare che devo fare due o tre passate nella macchina che vuoi bloccare. Tu vuoi. Ecco. Aggiungavi. Tu no? Già no, sei che sto boh. Oh, ecco. Oh. Stai ponendo. Questa antenna non è accesa, è due, è sotto la macchina. Quale è il computer? Tanto è per che è minuto. Dubito. Già. Tu. Questa antenna già wifi, alla bene questo amico tu. A voglia, batto 3 euro. E veramente batto il dollaro, deve essere 3 euro. Però tu sempre deve se fai che se dà la batto, E wifi, ma chi è amico mio? Ma Luca? Attore di Sefidi, una USB, una USB con antenna wifi attiva. Ah, una già di Sefidi, già l'appo. Ma abbiamo parlato di antenna che devi usare più lunga, è compreso. Ma a poco pure questa Super G, compreso. Ma se non è proprio questa Jazz, va bene. Oh, già. Link, se vi interessa. Accelerati. Sì. Messo supporto, no? Ti spiego come ti funziona. Allora, giù un supporto pesantissimo. Se lo lunga, messaggio e che vuole su software e intercetta la linea. Ma quanto lo vuoi appena lungo sulla USB? È lungo, pare che sia 2 metri, so. Però non è più lungo. E poi ha pure una ora lunga, ma non so, accanto a rifi, lì in tutto. Ma tu lo prendi, già? Ma dillo, ho messo Mattis. Ma dillo, compratilla. Ce la vede, se mi, alla Milu. Ma sono i due. Una pagina ancora. E fa la bila già però la no, prima ci andava bene. Certo che brincalle, allora andavo con te cazzo bilato, vai, a cazzacane. Brincallo sì. Questo non funziona, già messo su per gira, dai l'attivo, cazzo, che manca tutto. Ma che si stanno fatto mera? Hanno dato un sagliare. Hanno fatto una parabolina in allumino e ce l'hanno messo in mezzo. E diventa direttiva. Puro, no, ma questo anche io messo su per gira, aumenta la triplo da potenza. Io ho visto i giochi in carrera, un prispo, è sul baccone. È sul baccone, pareva benissimo. Quando non ha scatta la stagna e via, che la sta calinta. No, va a affiancare sul baccone, come ti dicevi, è tremenda, cazzo, che li cote. Già. A me ne hanno dato una di quelle fisse, no? Usa la topellina, da voce di tipo topellino, va. Resto due ad Alice, ma sono bloccata, però non riesce all'era esatta. Ma non servi, non ha sensibilità. Compresso, e quindi mi vuoi dire, ma per esempio, ma per me non uso, ma che si usa, ma se ne tu va bene, spesso, no? Allora, in verticale questa è una piazzata. Questa è una piazzata esattamente in verticale, questa posizione che hai detto io, questa base pesante, che l'incascia secondaria, la configura andente. E da voi, se bisogna, fatto un brinca la provamo. Curiosità. Ma, in poche parole, lui ti becca la linea quando gli dà, così è? Sì, no, questa è tesinata di tremenda, tutto ciò che bisogna è capita, ma voi deve essere questa retta già bella. Se ci unici in carrella, la vecchia ci ho portato le tre, ti dà più due o tre di libera. Poi ce ne sono due alice bloccate, ma la comportante le fa un po'. Poi lo prendete dietro. Io ero il vicino che ci ha reso quel tantino che ricevete. È tanto che era nato e che dai. Lo vedi con Skype e mi becca già poi ti sa già un preso. Una relizione in Tarai già, la sonda radio, la non ho mai conversato. No, ma già bene il barroteo sul buso, questo segnale. Compreso. Adesso comincia a che li pompare. Dico, non dico, mi pare chi questa già, infatti canto in me, dai, te canto pompa. Cazzo, te chiamano la manetta, ubili. Sì, bila regola, bila calibra in base al suo segnale, compreso. A me da voi ti ripone magari due o tre, sa bella, no, e dai, se non ha captato una, capta sa tre, adesso si è paganzato. Ma c'è bello puro. Da poi bifrata, va. Come vabbè, lasciate mandare di definire questa cosa, no, sono casino. Si mi sei preso a parte, dottor. Ma proprio la massa. Non dico, prima provala, poi dico, non ti preoccupi di questo, no, non c'è per sempre la questa cosa. Provala prima, no? Ciao a tutti.